caratterizzata da una ferrea disciplina interna, non ha mai superato i 500 aderenti, con le maggiori sedi a Roma, Ancona, Bari, Foggia, Lecce, Massa Carrara, Napoli, Reggio Calabria, Rieti, Taranto, Trento e Vibo Valentia. Ha organizzato campi paramilitari vicino Rieti e in altre località italiane. È un gruppo essenzialmente formato da ceto medio e sottoproletari. Delle Chiaie era al tempo della fondazione del gruppo il responsabile di zona di un piccolo ufficio assicurativo. Avanguardia Nazionale era, all'inizio delle sue attività, un gruppo di squadristi da usare in piazza. La commissione parlamentare sulle stragi ha dimostrato che Delle Chiaie era un confidente e un infiltrato di Federico Umberto D'Amato. Federico Umberto D'Amato è stato il capo dell'ufficio affari riservati formalmente dal 1966, il primo servizio segreto del Ministero degli Interni dell'Italia Repubblicana, che aveva riassorbito vecchi funzionari dell'OVRA, la polizia politica fascista. La sua carriera iniziò subito dopo la liberazione, collaborando con i servizi segreti anglo-americani, svolgendo attività di controspionaggio in particolare con James Angleton, capo dell'OSS, il servizio segreto statunitense da cui sarebbe poi nata la CIA. Fu anche sovrintendente della segreteria speciale del Patto Atlantico, fungendo da collegamento in Italia tra la NATO e gli Stati Uniti. D'Amato entrò nell'ufficio affari riservati nel 1954. Era anche iscritto alla loggia P2. La sua data di iscrizione è il 1 gennaio 1977. Il documento Bologna, ritrovato fra le carte di Licio Gelli, indica che D'Amato fu l'organizzatore e attuatore di un progetto criminale finalizzato da Gelli e Umberto Ortolani, culminato con la strage di Bologna. Ebbe un rapporto personale ed esclusivo con Delle Chiaie, che era anche un suo confidente e infiltrato. A Delle Chiaie interessava invece una sponda nel mondo dei servizi per ottenere finanziamenti nel giro dei finanziatori dell'eversione e poter disporre di una protezione. Fu coinvolto in depistaggi relativi a stragi neofasciste, ad esempio dopo la strage di Piazza della Loggia a Brescia, ordinò ai vigili del fuoco di ripulire la piazza, eliminando così tracce utili alle indagini. Era anche il principale promotore e ispiratore del Club di Berna, un centro informale di coordinamento fra i servizi segreti dei principali paesi europei. In una lista di agenti della CIA acquisita dal giudice Felice Casson sono presenti Federico Umberto D'Amato, Stefano Delle Chiaie, ma anche Gianfranco Bertoli, condannato per la strage alla questura di Milano del 1973, Augusto Cauchi, terrorista nero legato alla P2, Julius Evola, ideologo della destra estrema, Guido Giannettini, agente del SID, Giovanni Battista Palumbo, generale dei Carabinieri, Vito Miceli, capo del SID, Giovanni Allavena, capo del SIFAR, Gerardo Serravalle, capo di Gladio e il principe Giovanni Agliata di Montereale, gran maestro della Serenissima Gran Loggia Nazionale degli ALAM. Ed ora ascoltiamoci Non è finita a Piazza Loreto di Fausto Amodei. Non è finita Piazza Loreto, si è vinta una battaglia ma non la guerra, perché il taglio di una pianta non è completo finché le radici restano sottoterra. Se vuoi

Il 25 aprile 1960 i gruppi di Azione Rivoluzionaria si trasformano in Avanguardia Nazionale Giovanile, gruppo anticomunista e fascista che inizierà a distribuire manifesti e volantini che segnano l'inizio della strategia della tensione. Avanguardia Nazionale era specializzata nell'infiltrare i propri uomini in organizzazioni di sinistra negli ambienti anarchici e nel Partito Comunista. A Roma organizza corsi di guerriglia, di fabbricazione e uso di esplosivi ed un corso sulla guerra psicologica, basati su un manuale scritto dal giornalista Guido Giannettini ed agente del SID, il Servizio Informazioni Difesa. Nel gruppo le personalità di maggior rilievo furono, insieme a Delle Chiaie, Sergio Pace, il primo presidente che risultò poi legato a una loggia massonica, i fratelli Bruno e Serafino Di Luia, Adriano Tilger, Flavio Campo e Saverio Ghiacci. Come organo di stampa venne utilizzato per qualche tempo Avanguardia, periodico di lotta alla partitocrazia. La prima occasione in cui si realizza un buon rapporto con la polizia è nel 1962, quando ci saranno delle manifestazioni di organizzazioni giovanili di sinistra contro il presidente del Congo, Tshombe, in favore del rivoluzionario Lumumba, che verranno pesantemente assalite dagli uomini di Avanguardia Nazionale. Il 22 settembre 1962 Stefano Delle Chiaie partecipa ad un'aggressione fascista alla prima del film Mamma Roma, insieme a Serafino Di Luia, che nel frattempo aveva fondato un altro gruppo fascista, Lotta di Popolo, che fu inseguito e picchiato da Pierpaolo Pasolini. Il 5 luglio 1964, durante un comizio a Bari, Pacciardi e Ruspoli chiedono la fine del centro-sinistra ed un governo di salute pubblica. Partecipa al comizio anche Stefano Delle Chiaie. Il settimanale Epoca, in edicola a quella settimana, esce con una copertina tricolore su cui è scritto: «L'Italia che lavora chiede al capo dello Stato un governo energico e competente, che affronti subito con responsabilità la crisi economica ed il malessere morale che avvelena la nazione». Randolfo Pacciardi, nel dopoguerra, ricopre per lungo tempo l'incarico di ministro della difesa. È iscritto al Partito Repubblicano, del quale rappresenta la corrente di destra. In quel periodo diventa intimo amico di Carmelo Offi, agente dei servizi segreti statunitensi in Italia. Nell'ottobre del 48 afferma che al momento opportuno occorrerà arrestare 300 comunisti e socialisti per neutralizzare la sinistra. Nel giugno 1950 emana la circolare numero 400 sull'impiego delle forze armate nei servizi di ordine pubblico, che recita: «In ogni caso il fuoco non va mai impiegato a scopo intimidatorio. Il fuoco sarà diretto contro gli elementi più facinorosi e contro coloro che commettono gravi violenze e incitano a queste contro le forze dell'ordine». Il 1 marzo 1964 fonda l'Unione Popolare Democratica per una Nuova Repubblica, in cui confluiscono molti fascisti di Avanguardia Nazionale e di altre organizzazioni simili. Il 6 giugno dello stesso anno chiede che il Presidente della Repubblica componga un governo di salute pubblica, sciogliendo il Parlamento. Il 23 agosto 1974 la magistratura di Torino scopre un tentativo di colpo di Stato facente capo a Edgardo Sogno, Randolfo Pacciardi e Remo Orlandini. Il golpe era previsto per Ferragosto e aveva come obiettivo di forzare l'intervento dei militari a favore di una repubblica presidenziale. Nei primi 4 anni di vita, i militanti di Avanguardia Nazionale erano stati addestrati all'uso delle armi e degli esplosivi e avevano maturato un'esperienza di tipo militare. Tra il 62 e il 67, Avanguardia Nazionale realizzò alcune decine di attentati che portarono solo a qualche mite condanna, a dimostrazione degli appoggi istituzionali di cui godeva l'organizzazione. A partire dal 1963-64 inizia uno stabile finanziamento di 300.000 lire al mese da parte dell'Ufficio Affari Riservati per iniziativa di Federico Umberto D'Amato, per l'organizzazione di delle chiaie una cifra non modesta per il tempo, che darà disponibilità di una sede in pieno centro a Roma in via Arco della Ciambella. Il 3 maggio 1965 l'Istituto di Studi Militari Alberto Poglio organizza un convegno a Roma all'Hotel Parco dei Principi sulla guerra rivoluzionaria, che viene finanziato dallo Stato Maggiore dell'Esercito. La presidenza del convegno è composta dal consigliere della Corte d'Appello di Milano, Salvatore Alagna, dal generale dei paracadutisti Alceste Nulli Augusti e dal colonnello di artiglieria Adriano Maggi Braschi. La relazione introduttiva è tenuta da Enrico De Boccard, un gerarca della Repubblica Sociale Italiana. Fra i relatori Guido Giannettini sulla varietà delle tecniche nella condotta della guerra rivoluzionaria, in cui tratta due elementi essenziali della strategia della tensione. Egli fornisce indicazioni operative per compiere attentati terroristici indiscriminati, camuffati in modo da attribuirne le responsabilità alla sinistra, in modo da premere sull'opinione pubblica. Altri interventi furono quelli di Pino Rauti sulla tattica della penetrazione comunista in Italia, di Giorgio Pisanò su guerra rivoluzionaria in Italia 1943-45, Giano Accame, collaboratore di Pacciardi, sulla controrivoluzione degli ufficiali greci, di Pio Filippani Banconi, impiegato all'ufficio cifra del Ministero della Difesa, propone la creazione di piccole squadre addestrate a compiti di controterrore in modo da determinare una diversa costellazione delle forze di potere. Tra gli altri partecipanti c'è anche Ivan Matteo Lombardo, dirigente della SQUIB, autore con Saragat della scissione del PSI nel 1947. Al convegno partecipò pure un rappresentante dell'ufficio affari riservati. Tra gli osservatori sono presenti Stefano Delle Chiaie e Mario Merlino. Per preparare il convegno furono redatti due volantini, uno spedito agli ufficiali dell'esercito scritto negli abituali caratteri latini. Fa riferimento al colpo di Stato in Spagna di Franco ed infatti è pubblicato nella data della ricorrenza il 18 luglio e ha un taglio nazionalistico. Il secondo invece arriverà in ottobre, è in caratteri gotici, contiene un riferimento al processo di Norimberga e ha un sapore più dichiaratamente nazista. Il primo dei due volantini è opera del generale Mastragostino dell'organizzazione Combattentismo Attivo, che aveva questa impostazione più tradizionale a cavallo tra Movimento Sociale Italiano e monarchici. Il secondo invece è di ordine nuovo. Nel convegno viene esposta la teoria della guerra psicologica, cioè trovare i modi e le forme per condizionare e suggestionare le masse e indurle al comportamento collettivo e politico desiderato, utilizzando i nuovi mezzi di comunicazione e le scoperte scientifiche sul comportamento delle folle. Inoltre viene fatto la richiesta di legare l'azione militare con un adeguato sostegno politico, ragion per cui l'obiettivo del convegno è raccordare l'apparato militare con un adeguato sostegno politico che i gruppi di Rauti e Delle Chiaie si candidano a coagulare. Si vuole realizzare una nuova repubblica presidenziale e antipartitocratica, da realizzare con i metodi della controinsorgenza. Possono essere reclutate le forze più determinate che si trovano nelle organizzazioni di estrema destra. Si tratta di un raduno fra fascisti, alte cariche dello Stato e imprenditori che in maniera molto lucida getteranno le basi ideologiche e organizzative della strategia della tensione. Scrive il giudice Salvini nella sua sentenza ordinanza del 1995. Tale strategia era stata introdotta nel nostro paese grazie all'elaborazione teorica e all'ispirazione dell'Agenterpress di Gerin Serac, che era alla mente degli attentati e in particolare era in contatto con Stefano Delle Chiaie. Elemento caratterizzante di tale strategia era la creazione di falsi gruppi di estrema sinistra e l'infiltrazione in altri già esistenti, al fine di far ricadere su di essi la responsabilità degli attentati, provocare l'intervento delle forze armate ed escludere il Partito Comunista da qualsiasi possibilità di influenza significativa sulla vita politica italiana. Guérin Serac, il cui vero nome era Yves Guillon, era di origine bretone, era stato capitano dell'esercito francese in Corea, Indocina e Algeria. Disertò nel febbraio 1962 a Orano per unirsi all'OAS, che era un'organizzazione paramilitare contro la fine della politica coloniale francese in Algeria, ricorrendo al terrorismo, causando migliaia di morti, principalmente in Algeria, ma anche in Francia. Nel 1963 fondò l'Agence Presse a Lisbona, un'organizzazione internazionale anticomunista composta da specialisti della lotta contro la sovversione. La sua ideologia era cattolico, tradizionalista e fortemente anticomunista, orientata alla difesa dei valori occidentali e della presenza bianca in Africa. Guérin Serac è stato un ideologo e organizzatore della strategia della tensione in Italia. Le attività dell'Agence Presse includevano la propaganda e il reclutamento di mercenari ed aveva filiali a Bonn, Buenos Aires, Ginevra, Saigon, Roma, Tel Aviv, Washington, Stoccolma e Taipei. Il giudice Salvini definì l'Agence Presse una banda armata di carattere internazionale. Dopo la rivoluzione dei garofani in Portogallo nel 1974, l'Agence Presse fu costretta a lasciare Lisbona e a ristabilirsi a Madrid, operando sotto la protezione dei servizi di sicurezza spagnoli. Gli uomini di Guérin Serac operavano sotto la copertura dei servizi segreti occidentali e della CIA, che riforniva di armi l'ELP, l'Esercito di Liberazione Portoghese, una formazione terrorista di destra creata da Serac. Braccio destro di Serac era Robert Leroy, ex Waffen-SS, coinvolto nel controspionaggio in favore della NATO. Nel 1977 fu sequestrata una valigetta, trovata in casa di Vincenzo Modugno, nella quale erano conservati molti documenti falsi e un tesserino dell'Agence Presse intestato a Giovanni Martelli, ma con la fotografia di Stefano Delle Chiaie. Ascoltiamoci ora Fischia il vento dei Modena City Ramblers. Forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il pranzo nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta farà del partigiano. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è la dura sorte del fascista vile traditor. Calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Che il vento in furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Avanguardia Nazionale fu sciolta dopo numerosi arresti dei suoi militanti fittiziamente da delle chiaie alla fine del 1965. In realtà, come vedremo, continuerà ad agire. Una decisione che delle chiaie definì uno stratagemma tattico. Delle chiaie successivamente raccontò di essere riuscito a scampare nel 1962 alla condanna a un anno di carcere grazie all'interessamento di Ernesto Brivia, altro terrorista fascista, che, come confessato successivamente da delle chiaie stesso, pagò 1.000.000 lire per cavarlo dagli impicci. Il 10 aprile del 1966, durante scontri all'Università di Roma, lo studente socialista Paolo Rossi viene scaraventato giù da militanti di Avanguardia Nazionale nella tromba delle scale e muore. Il caso rimarrà giudizialmente insoluto, ma si scatena una campagna stampa di sinistra, in particolare di Paese Sera, su questo gruppo fascista, che aveva anche impedito una lezione in occasione del 25 aprile di Ferruccio Parri. La cosa ebbe una risonanza nazionale ed iniziò un'indagine per ricostituzione del partito fascista contro Avanguardia Nazionale. Nel febbraio 1966 per la città di Roma appaiono manifesti di un movimento di ispirazione filocinese fasullo che punta a una scissione nel Partito Comunista. Le affissioni saranno effettuate da uomini di Avanguardia Nazionale, ma il manifesto sarà fornito dall'Ufficio Affari Riservati. La cosa verrà scoperta nel marzo del 1970, quando Serafino Di Luia, in un'intervista al Corriere della Sera, dirà: «Eh no, chi ha mandato Merlino?». Merlino è uno degli indagati per la strage insieme a Valpreda, però solo che Merlino era un fascista infiltrato fra gli anarchici. E prosegue Di Luia: «Chi ha mandato Merlino, uomo di Avanguardia Nazionale, fra gli anarchici? È stato lo stesso uomo che diresse l'operazione dei manifesti cinesi». Vincenzo Vinci Guerra ha affermato di aver saputo dallo stesso delle chiaie che la immediata liberazione di alcuni avanguardisti fermati durante la fissione era dovuta ad un intervento dell'Ufficio Affari Riservati. Vincenzo Vinci Guerra è stato membro della cellula di Ordine Nuovo di Udine e successivamente ha militato in Avanguardia Nazionale. Nel 1972 Vinci Guerra, insieme a Carlo Ciccuttini, fu l'artefice della strage di Peteano nel 1972, in cui morirono 3 carabinieri. Questa strage, con un depistaggio, fu attribuita inizialmente dai servizi segreti a lotta continua. è stato anche condannato a 12 anni, Vinci Guerra, per complicità nel dirottamento del Fokker 27 avvenuto il 6 ottobre 1972 all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Dopo la strage di Peteano fu latitante all'estero dal 1974, prima in Spagna, dove incontrerà Stefano Delle Chiaie, poi nel 77 in Cile e infine in Argentina. Rientrò in Italia nel settembre del 1979. Vinci Guerra si costituì e si autoaccusò dell'attentato di Peteano. La sua decisione di costituirsi era motivata dalla volontà di smascherare i depistaggi dei carabinieri e dei servizi segreti e dalla convinzione della connivenza di Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo con gli apparati dello Stato. Ha sempre dichiarato che intendeva denunciare coloro che considerava finti fascisti e traditori, che a suo dire progettavano stragi e colpi di Stato al fianco di uomini dello Stato agendo come pedine del potere anche americano e atlantico. Ha quindi reso numerose dichiarazioni ai giudici istruttori e ai pubblici ministeri, contribuendo significativamente alla ricostruzione della strategia della tensione. Le sue dichiarazioni sono sempre state considerate particolarmente attendibili. Ha anche confermato che Delle Chiaie aveva rapporti con la massoneria di Piazza del Gesù. Ne riporto la dichiarazione. Posso solo precisare che Delle Chiaie si riferisce alla massoneria di Piazza del Gesù. C'erano rapporti tra Stefano Delle Chiaie ed appartenenti alla massoneria. Ricordo che Mario Tilger era massone e che Saccucci era massone. Inoltre Delle Chiaie aveva un rapporto personale e diretto con l'avvocato Minghelli. Nel marzo 1968 ci furono a Roma gli scontri di Valle Giulia. Agli scontri parteciparono da un lato il movimento studentesco e dall'altro Avanguardia Nazionale. Dopo la battaglia l'università fu occupata e la facoltà di giurisprudenza passò sotto il controllo di Avanguardia Nazionale, mentre quella di lettere fu occupata dal movimento studentesco. Il 16 aprile 1968 52 estremisti di destra, fra cui Stefano Delle Chiaie, l'agente del SID Stefano Serpieri, Mario Merlino, Pino Rauti, Franco Rocchetta e altri fascisti italiani, partono da Brindisi per un viaggio di istruzione sulle tecniche di infiltrazione nella Grecia dei colonnelli, a spese del governo greco, nell'occasione della celebrazione del primo anniversario del colpo di Stato che ha portato al potere il colonnello Giorgio Papadopoulos. Il viaggio è frutto della nuova collaborazione fra il SID e il KIP, il servizio segreto greco, ed è stato organizzato dal tenente colonnello Pieche del SIM, Servizio Informazioni Militari. Nell'ottobre 1969 Delle Chiaie si incontra con esponenti dell'Andrangheta in Aspromonte, insieme al leader di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli e all'ex gerarca fascista Junio Valerio Borghese, per partecipare a un summit dei boss calabresi. Il 12 dicembre 1969, in concomitanza con la strage di Piazza Fontana, che causò 17 morti e 88 feriti, ed un altro attentato fallito alla Banca Commerciale di Milano, ci furono tre attentati a Roma, alla Banca Nazionale del Lavoro di via San Basilio, che causò il ferimento di 14 dipendenti, un altro all'Altare della Patria in Piazza Venezia ed il terzo al Museo del Risorgimento situato nella parte posteriore dell'Altare della Patria. Complessivamente 16 persone rimasero ferite. Il 14 dicembre 1969 il Movimento Sociale Italiano, subito dopo il rientro di Ordine Nuovo al suo interno, indisce una manifestazione a Roma. Una grande adunata fu definita, che avrebbe dovuto innescare la richiesta da parte della piazza di destra di un governo forte e di un intervento dei militari. Come racconta poi Vincenzo Vinci Guerra, la mattina del 14 si seppe che l'adunata non si sarebbe svolta in quanto sospesa dal governo. Ed ora ascoltiamoci Italia Antifascista del gruppo Il Vespro. Ooh. sa che tanti anni fa è mancato qualche cappio. Piazzale Loreto non è stato un bel momento, ma almeno ha funzionato, quindi io non mi lamento. Fatto sta che tanti stronzi sono scappati dappertutto, i nazisti in Venezuela ed i fascisti ancora in lutto. Il problema è che i nipoti sono rimasti tutti qua, ben nascosti tra le genti delle nostre città. Quelli usciti nel 70 erano i più violenti, poi di nuovo nel 90 con il nano e i suoi parenti. Oggi sono alla ribalta con il governo Meloni e Spavaldi arroganti ancora rompono i coglioni. L'Italia antifascista non si piega, no. Resiste a quelli che ancora sperano di togliere la voce al nostro popolo e di farne tutto ciò che vogliono. L'Italia antifascista non si piega, no. Resiste a quelli che ancora sperano di togliere la voce al nostro popolo e di farne tutto ciò che vogliono. Il coraggio di dichiararsi antifascista. Citi la Costituzione, sei uno sporco comunista. Lo striscione al panificio il 25 aprile ad alcuni ha aperto gli occhi come un colpo di fucile. La liberazione festeggiatela in silenzio, ha detto il ministro impaurito dal dissenso. Non si intonino canzoni, non si fermi la nazione, che tradotto vuole dire voglio la sottomissione. Ti identificano, smetti lo striscione della pace, ma se gridi camerati la polizia li tace. Adesso il re è nudo, la maschera è caduta e la maggioranza in Parlamento ancora sta seduta, ma l'aria sta cambiando, in tanti han già capito che sto governo qui fa gli interessi del partito. L'Italia antifascista non si piega, no. Resiste a quelli che ancora sperano di togliere la voce al nostro popolo e di farne tutto ciò che vogliono. L'Italia antifascista non si piega, no. Resiste a quelli che ancora sperano di togliere la voce al nostro popolo e di farne tutto ciò che vogliono. Secondo Edgardo Bonazzi, gli attentati a Roma del 12 dicembre 1969 furono curati da uomini di Stefano Delle Chiaie. Edgardo Bonazzi era un fascista del Movimento Sociale di Parma, che nel 1972 uccise in quella città il militante di lotta continua Mario Lupo. Arrestato, ha condiviso la carcerazione con Freda, con Cutelli, Nicoazzi e Giannettini ed altri simili figuri in vari carceri speciali, apprendendo da essi, in quanto considerato un camerata affidabile, una notevole mole di notizie su tutti i fatti di strage e di eversione. Nel 1994 Bonazzi si dissociò dal terrorismo fascista ed iniziò a rivelare quanto a sua conoscenza. Purtroppo la sua decisione di dissociarsi avvenne tardi, dato che gran parte degli imputati fascisti delle stragi nel frattempo erano già stati assolti in via definitiva. Carlo Di Giglio ha dichiarato di aver appreso in tempi e circostanze diverse da Marcello Soffiati e Giancarlo Rognoni, leader del gruppo La Fenice a Milano, che il gruppo di avanguardia nazionale era il principale responsabile dei 3 attentati commessi a Roma. Anche Vincenzo Vinci Guerra ha affermato più volte di aver avuto notizie da fonti interne alla struttura di Ordine Nuovo di Avanguardia Nazionale sulla partecipazione di elementi di quest'ultimo gruppo agli attentati di Roma. Inoltre, Vinci Guerra ha riportato che la strategia degli attentati del 12 dicembre 1969, compresi quelli di Roma, faceva parte di un progetto golpista introdotto in Italia dall'Agenterpress di Guérin Cerac, che era in contatto con Stefano Delle Chiaie. Come se non bastasse, Graziano Gubbini, ordinovista e detenuto negli anni 70, ha dichiarato di aver appreso in carcere che gli attentati di Roma erano stati commessi da Avanguardia Nazionale. Inoltre, un'informativa del SID del 16 dicembre 1969, pervenuta però alla magistratura solo nel novembre 1973, indicava Mario Merlino come l'attentatore alla Banca del Lavoro di Roma e all'Altare della Patria, che veniva definito filo cinese e successivamente, nella versione più ridotta dello stesso appunto, con data 17 dicembre 1969, anarchico. In tale appunto, proveniente dalla fonte Stefano Serpieri, militante dell'organizzazione Europa Civiltà e informatore del SID, si riferisce in sintesi che la mente ispiratrice degli attentati sarebbe stato tale Guérin Cerac, che viene definito di ideologia anarchica, e che sarebbero stati organizzati da Stefano Delle Chiaie e che aiutante di Guérin Cerac sarebbe un certo Robert Leroy, di cui indica l'indirizzo vero di Parigi. Il 25 luglio 1970 Delle Chiaie si dà latitante a causa di un mandato di cattura per la strage di Piazza Fontana. Quel giorno viene anche chiamato a testimoniare sul ruolo di Mario Merlino nella strage di Piazza Fontana. Trova asilo politico nella Spagna di Franco, dove si distingue per operazioni sporche contro i baschi. Rimarrà latitante per 17 anni, ma tornerà in Italia diverse volte, come vedremo. I servizi segreti spagnoli costituirono anche un fondo per il sostegno dei latitanti fascisti italiani, che veniva amministrato da Stefano Delle Chiaie, e gli assegnarono anche la sede della società Eniesa, un ufficio che apparentemente commercializzava attrezzi per macchine da lavoro, ma che in realtà era un ufficio di copertura dei servizi segreti spagnoli. Finisce qui questa prima parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, su Stefano Delle Chiaie. Alla prossima!